solo per dire cose senza senso, che sono arrivato fino qua, ma in compenso chi mi ascolta, se dico ciò che penso, potrà regalarmi la sua assenza o il suo assenso. È una melodia suonata tutta in controtempo, questa vita mia divisa fra il sorriso e il pianto, musica e follia che si rincorrono nel vento, mentre le parole sottolineano ogni accento, ogni accento. Quando canto suonando mi racconto, è come per incanto io continuo e m'accontento. Se il consenso non mi cammina accanto, continuo a cantare in controtempo e me ne vanto. Anche se una melodia stonata è fuori tempo, questa vita mia divisa fra il sorriso e il pianto, ogni nuovo giorno me lo invento sul momento. Volo di gabbiano a volte vela contro vento, vela contro vento. Chissà se un giorno tu t'accorgerai quant'è che t'ho voluto bene. Chi lo sa se verrà mai il momento per veder fiorir le viole assieme. Nel frattempo io coltivo e annaffio il seme. C'è chi dice che il ritmo del mio tempo non ammette spazio per un andamento lento. Io però ci credo ed ogni tanto ricordo al mio buon senso di restare molto attento. Anche se una melodia stonata è fuori tempo, questa vita mia divisa fra il sorriso e il pianto, schizofrenica follia che si muove da dentro e dà vita ai miei pensieri. E se ci penso, io ripenso. Chi lo sa se